Can you see it, my brother? Can you see the new? Can you see it, my sister? Can you see the new? Can you see it, my brother? Can you see the new? Can you see it, my sister? Can you see the new? Iniziamo subito con i magazine anticipati per la presenza di due ospiti in diretta telefonica, quindi abbiamo la possibilità anche di portare una sorta di last minute inserito all'interno della rassegna stampa culturale e anche un tratto di jazz live per quanto riguarda il concerto al Torrione del sabato appena trascorso. Il progetto è di Mark Hopland, pianista non certo di primo pelo, dalle collaborazioni importanti, carismatico, grande tessitore di trame meravigliose, un concerto che ha incantato, un concerto che ha coinvolto, ha fatto sognare. Nell'ambito della rassegna al Jazz Club, certamente questa prima parte di inizio 2024 ha dato motivo di sorpresa e di stupore, e Someday, il lavoro di Mark Hopland insieme a una formazione veramente molto importante, ha portato, oltre che la qualità, la sensazione di un'armonia onirica e nello stesso tempo importante, di grande aspetto musicale e di coinvolgimento per il pubblico che, silenzioso e incantato, è restato, per così dire, piacevolmente assorto da queste note. Io ovviamente ho acquistato il disco perché è anche molto molto bello da proposta radiofonica mattutina. Il lavoro Someday con questo brano Left Cool Me di Thelonious Monk è in apertura di playlist ai magazine nella puntata odierna, dove si parlerà di grandi tessuti, di lavorazione, di trame e di incroci, partendo dal lavoro che di un grande sarto che viene ritratto da Giovanni Battista Moroni all'interno di pagina 18 di Tutto Libri della Stampa. E per quest'opera volevo dare questa colonna sonora, insomma, e ne parleremo tra pochissimo per i magazine. Pinciotti alla batteria, veramente incisivo e soprattutto un collante per portare ritmica altrettanto raffinata, Drew Grass al contrabbasso. Insomma, è stato un concerto dalle caratteristiche che ho elencato in precedenza e che ha portato un altro grande motivo di ascolto per il Jazz Club Estense nel sabato appena trascorso. Ricordo che il prossimo, il protagonista, il contraltista Miguel Zenon. Intanto stiamo ascoltando ascoltando da Someday il brano dall'interpretazione di un originale Thelonious Monk, Let's Cool One, per quanto riguarda la formazione di Mark Copland al pianoforte insieme al suo quartetto. Le trame, si parlava di sartoria, no? Mi è venuto in mente proprio ascoltando queste note come potesse essere a commento dell'articolo a pagina 18 su Tutto Libri della Stampa a proposito di arte. A proposito di arte, questa settimana parte il lungo 800 a Bologna, quindi avremo modo di diversi approfondimenti per la rubrica Il Mostro del Giovedì. Ma non divaghiamo, perché il capolavoro invece che viene qui riportato a commento di un sax soprano è stato protagonista insieme a Mark Copland, Robin Verheyen, un musicista molto virtuoso e nello stesso tempo tecnicamente ineccepibile. Eccolo qua, gran talento, è stata una sorpresa assolutamente incantevole. Il sarto di Moroni, Giovanni Battista Moroni, 1521-1580. Alle Gallerie d'Italia di Milano viene portata questa esposizione. Ne abbiamo talmente tante che questa purtroppo la cito velocemente. È una mostra descritta da Antonio Grulli, come ho detto su Tutto Libri della Stampa, con questo lavoro, un ritrattista. Sta anche Giovanni Battista Moroni di quello che è stato un periodo artistico per Brescia quanto mai incisivo. Ricordiamo, per gli artisti che arrivano da quelle parti, anche il Savoldo, un artista che è un po' un capostipite di quelle rappresentazioni e di quel motivo di ispirazione, e non solo, comunque. Portiamo un motivo dialogico all'interno dell'esposizione lavori. Ricordiamo che Brescia allora era all'interno della Repubblica Serenissima di Venezia, quindi l'ispirazione con Tiziano, la parte comparativa con Lorenzo Lotto, insomma arriva questo ritratto, il sarto, ed è qualcosa di molto particolare anche perché l'ho trovato più volte, la tipica immagine che vedi più volte e dici ma questo, ma è come, io l'ho già visto, non mi viene in mente. E poi me lo ritrovo sull'inserto di sabato sulla Stampa, no? Ed è un'immagine molto singolare di questo giovane ragazzo, tra l'altro in abiti dell'epoca, intento all'opera del tramare del suo lavoro, no? Di sartoria. È come se distratto alzasse il capo, quasi un po' seccato, intento a portare avanti il suo lavoro, e guarda il visitatore come in un modo interrogativo: perché mi hai disturbato? Che c'è intanto che sto lavorando? Sta tagliando un tessuto nero e intorno a questa sala tutti altri ritratti vestiti di nero, con personaggi e soggetti vestiti di nero. Quindi come se l'opera fosse un motivo di abbellimento ulteriore, immaginario, per le altre opere esposte, come se lui stesso portasse vestiti a questi ritratti nella stessa sala. Un'idea originale nell'allestimento alle Gallerie d'Italia per questa sezione specifica dedicata a Giovanni Battista Moroni. E poi altri motivi di riflessione personali mi sono arrivati. In questo caso, certo, il lavoro di sartoria, del tessile, di una sorta anche di eleganza. Mi sono chiesto, ma ricordo quando andavo a provare i vestiti, per me era una sofferenza atroce, anche adesso è una sofferenza atroce provare e acquistare capi d'abbigliamento, però all'epoca, da bimbetto, quando la sartina appunto cercava di prendere misure in maniera anche invasiva, per me era qualcosa di veramente una seccatura, una scocciatura molto molto forte. Beh, portare vestiti, l'abbigliamento, acquistare. C'è chi ne ha una voglia smodata ed è colpito da una compulsione per l'acquisto. Non è il mio caso, anzi per me è una vera e propria sofferenza cercare abbigliamento, trovare nuovi abiti e purtroppo anche dovuto alle misure. Questo mi piace, ma non mi va bene. Questo mi piace, ma non mi va bene. Ed è un continuo con questo leitmotiv nel provare abiti. Quindi insomma non è certamente una mia priorità. In questo caso ho detto però l'arte, guarda un po' come allo stesso tempo può svoltare, farti venir voglia guardando queste immagini riportate nella condizione di insieme che, ma quasi quasi vado a comprare una giacca, va. Grande ritrattista, aggiungo anche un chirurgo, un fine chirurgo della psiche, si spinge in questi abissi del pensiero dell'individuo facendolo diventare un personaggio universale. E con questo mi collego al prossimo articolo, magari dopo la pubblicità, è quello che è uscito dalle opere teatrali. Nessun altro soggetto di Moroni ha la complessità e profondità psicologica di questo sarto. Sembra celarsi magicamente il pittore stesso, l'artista intento a tramare e a ritagliare delle figure eterne nella materia della vita. Sì. Bella l'idea della sezione di mettere questo lavoro che ho già visto più volte, finalmente ho capito di chi è, di Giovanni Battista Moroni, 1500, poco dopo il 1500, e all'interno di questa sezione tanti altri ritratti, tutti vestiti di nero, e lui è l'unico non vestito di nero che sta tagliando, sta tessendo, sta tramando una tela di colore, guarda un po' nero, come se lui stesso avesse preparato modelli e materia d'abbigliamento per tutti gli altri quadri. Questo è un bel affare, per così dire, soprattutto per chi ha il talento, in questo caso di sartoria, ma oltremodo per quanto riguarda la pittura e l'arte figurativa. E complimenti a curatrici e curatori per questa idea di rappresentazione. Un po' di musica con Charlie Hunter, si rientra, si parla a proposito di linguaggio universale, di lingua dell'universo, è un long format che apre la lettura del Corriere della Sera. Dopodiché avremo in diretta telefonica Marcello Corvino, direttore artistico del Teatro Comunale di Ferrara. A tra poco. di nuovo Magazine a breve con Marcello Corvino, direttore artistico del Teatro Comunale di Ferrara. Conosceremo l'iniziativa Cantante 4.0, la nuova figura del cantante 4.0 capace di integrare la tradizione, l'innovazione, l'autopromozione del proprio talento. Ma come vi ho detto, di rientro a proposito di tessiture e trame dell'universo, è il long format che troviamo a pagina 2, si dilunga all'interno della lettura del Corriere della Sera, parte da Galileo Galilei quando nel 1610 pubblica il Sidereus Nuncius, saggio fondamentale con un titolo che significa sia il messaggio delle stelle sia il messaggero delle stelle. È stato anche censurato, ovviamente, lì lo scienziato pisano rese note osservazioni sulla Luna, dei satelliti di Giove e sugli astri, poiché tali osservazioni erano possibili grazie alla luce, che diventa protagonista all'interno di questo long format di cui parleremo a breve. Un po' di musica con The Hand, Liorca, per la Ad Communication, tempo tecnico di collegamento con Marcello Corvino per conoscere Cantante 4.0. A tra poco. Figura del cantante capace di integrare la tradizione, l'innovazione, l'autopromozione del proprio talento è un'iniziativa che ha sede nella bellissima città estense di Ferrara, nel Teatro Comunale di Ferrara. Ma per saperne di più, ovviamente, siamo con il direttore artistico di questa prestigiosa sede teatrale, quindi ben contento. Senti che musichina accogliente da buongiorno che ti ho portato, Marcello. Buongiorno e benvenuto. Grazie William, grazie, piacere di essere con voi. Piacere nostro. Marcello Corvino, direttore artistico del Teatro Comunale di Ferrara, oltre che grande amico di Radio Città Fugico. Allora, ci puoi dire di più? Intanto già siamo arrivati al Cantante 4.0, per cui insomma abbiamo già passato altri step. Puoi svelare qualcosina a proposito di questo richiamo? Guarda, noi intanto cioè, è un punto d'arrivo questo corso. Io sono stato nominato direttore del teatro nel 2020. Eravamo in pieno Covid, che però insomma abbiamo passato facendo tante produzioni per la radio, per la TV, eccetera, eccetera. Era subito chiaro una cosa, che avremmo investito molto sui giovani. E l'abbiamo fatto nella danza e l'abbiamo fatto anche con la lirica. Appena il Covid insomma ha attenuato i suoi morsi, abbiamo fatto una selezione di 350 giovani cantanti under 30, provenienti davvero da tutto il mondo. E con Leone Maggera, che è presidente onorario del teatro, ricordiamo che Leone Maggera è stato il maestro e il pianista e direttore di Pavarotti per una vita, è stato il maestro nonché il marito di Mirella Freni, è stato 6 anni al fianco di Karajan a Salisburgo, poi alla Scala, eccetera eccetera. Quindi con Leone abbiamo impostato questo progetto di lavoro con i cantanti. Lui, da questi 350, ne abbiamo selezionati un gruppo col quale abbiamo realizzato il Don Giovanni, che poi abbiamo portato in Corea, le nozze di Figaro, e poi adesso faremo a novembre il flauto magico. E nell'ottica di questo lavoro al fianco degli artisti giovani, abbiamo pensato che era necessario accedere ai fondi regionali per assicurare ai giovani artisti un numero di ore congruo per poter stare con il maestro Maggera e andare a sopperire ad un altro tassello mancante all'interno del teatro. Abbiamo a disposizione l'orchestra Città di Ferrara, con la quale facciamo tutte le produzioni nuove, e appunto abbiamo questo gruppo di cantanti con i quali far le opere per quanto riguarda il cast dei solisti, e con questo cantante punto zero, a quale accederanno 20 cantanti, vogliamo andare a creare un nucleo intorno al quale costruire il coro, che insomma serve per le parecchie produzioni, certo, che facciamo comunque nel corso dell'anno. E grazie a Com2, che è una società che appunto organizza questi corsi, abbiamo realizzato questo progetto, che è stato approvato e finanziato. Il 28 di marzo ci saranno le audizioni per poter accedere al corso. Comunque tu adesso probabilmente il tuo interesse era sul perché 4.0. No, il mio interesse è anche diffondere soprattutto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Città Fujiko la possibilità di partecipare, quindi insomma, se qualcuno ha intenzione, per me, oltre che darne un aspetto di cronaca e curiosità, vorrei anche qualcosa da poter comunicare in maniera concreta al pubblico felsinio in direzione Ferrara. Ecco, ci puoi dire qualcosa di più? Poi parleremo del 4.0. Esatto, ma guarda, comunque il nostro scopo è quello di costituire il nucleo centrale di questo coro, che poi adesso, per parlarti della programmazione del teatro, avremo adesso abbiamo l'Orlando Furioso di Vivaldi, ovviamente c'è il coro, e tra l'altro è un'opera che debutterà il 5 aprile, poi porteremo a Modena, poi porteremo a Bayreuth in Germania, poi porteremo in Corea. Poi subito dopo, il 24 aprile, avremo Ecce Cormeum di Paul McCartney, per la prima volta in Italia seguiremo questo oratorio di Paul McCartney. E lì ci sarà bisogno del coro, il coro ci sarà bisogno anche nel Barcellona Opera Rock dei Queen. Abbiamo una programmazione piuttosto intensa, dove c'è la necessità di avere insomma anche il coro a disposizione. Quindi noi andremo a selezionare delle voci che insomma saranno necessarie per fare questo. Queste voci avranno 410 ore di corso, che ha il corso, l'accesso al corso è gratuito. Questa è una cosa molto, molto importante, certo, perché comunque insomma, i ragazzi che studiano hanno, insomma, bisogna aiutarli, e quindi il fatto che questo corso sia gratuito e che dia comunque la possibilità di studiare con persone come Leone Magera, oppure per la parte scenica con Michele Placido, insomma, è una cosa piuttosto importante. È una bella opportunità. Sì, i master, che di solito durano un weekend, questo invece dura 410 ore di lezione più 190 ore di pratica, in realtà di stage, che vuol dire appunto di lavoro per realizzare, sì, i concerti, le opere, eccetera, eccetera. È una bella opportunità, è gratuito, quindi io, insomma, consiglierei vivamente chi intende intraprendere una carriera da cantante, insomma, di fare questo corso. La cosa importante, appunto, da ricordare è di iscriversi entro il 28, perché appunto il 28 c'è l'audizione, ma adesso probabilmente faremo più di un'audizione, dipende dal numero dei partecipanti, cioè dei oggi partecipanti. È il 18, il termine è il 28. L'iscrizione per questa lodevole iniziativa si può fare attraverso sul sito del Teatro Comunale di Ferrara, oppure sul sito della società Com2, che è la società che insomma, gestisce la parte organizzativa del corso. È un'azienda accreditata dalla Regione Emilia Romagna, che fa corsi di formazione professionale. Sì, leggo anche autopromozione, innovazione, insomma, ci sono diverse sfaccettature in tutto ciò per quanto riguarda l'approccio alla musica, Marcello. Noi riteniamo che un cantante, un giovane artista che si avvia alla professione del cantante, reputiamo che debba avere anche conoscenze al di là della musica, che sono fondamentali per promuovere la propria carriera. Quindi faranno delle lezioni, non so, per imparare ad aprire un'associazione culturale, faranno delle lezioni per imparare la parte contrattualistica, quali sono i diritti e i doveri. I cantanti, quando iniziano a vincere concorsi, poi dopo vengono presi nelle agenzie, che fanno un importante lavoro di comunicazione, di informazione, eccetera, eccetera. Però io ritengo che i cantanti debbano comunque sapere quali sono i loro diritti, quali sono i loro doveri, quali sono le regolamentazioni di tutto ciò. Sì, certo, così come è necessario che i cantanti sappiano quali siano le strade per promuovere la propria carriera. Il loro lavoro, sì. Sì, per dire, per Pavarotti e Mirella Freni era sufficiente, a parte il fatto che bisogna avere un talento immenso, comunque che con un talento immenso era sufficiente andare in teatro e cantare. Adesso non è più così. Adesso non è più così. Ci sono tanti, viviamo in società plurali e complesse, e i mezzi di comunicazione sono tanti, e quindi entrare in contatto con degli specialisti dei vari settori per capire quali sono i canali di autopromozione, perché all'inizio bisogna autopromuoversi. Sì, è importante, hanno fatto, e saperlo come fare, così, visto che c'è un mare magnum di possibilità, e anche questo, esatto, una possibilità in più che dà l'iniziativa del Teatro Comunale di Ferrara. La scadenza, esatto, è il 28 marzo, per cui, insomma, esatto, questo lo diffondiamo anche alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Città Fujiko, la nuova figura del cantante capace di integrare ovviamente la tradizione, ma anche l'innovazione, l'autopromozione del proprio talento. Sarà fino al 28 marzo, Teatro Comunale di Ferrara, e ora 4.0, perché mi sembra, esatto, e perché, esatto, questa è la quarta, non so perché 4.0. Ma non so perché, cioè no, non so, adesso siamo al 4.0, tra un po' arriveremo, okay, all'intelligenza artificiale, siamo al 4.0, poi dopo non so, un po' come l'iPhone esatto, è arrivato al 14, okay, noi siamo ancora a 4, per fortuna siamo un po' più indietro rispetto a... ma di strada ne abbiamo, e poi all'iPhone ovviamente sono, c'è? Di altra modalità, ho capito. Volevo dimmi, sottolineare una cosa, adesso non so se ha ancora tempo, si è scaduto il nostro tempo di fede. No, qui non il... si scade mai, non si hanno delle mozzarelle, vai. Ah, ecco, grazie. Senti, no, volevo dirti che noi all'interno della programmazione della stagione lirica del Teatro Comunale, per esempio noi abbiamo iniziato con la Turandot di Puccini, sì, e finiremo con Barcellona Opera Rock dei Queen. Dei Queen. Abbiamo fatto la Bohème di Puccini, questo è l'anno del centenario dalla morte di Puccini, però abbiamo anche l'oratorio di Paul McCartney, abbiamo una programma, adesso avremo l'Orlando Furioso di Antonio Vivaldi, poi avremo le Città Invisibili di Calvino, di Istantanea, insomma cerchiamo di avere una programmazione allargata, una programmazione che tenga conto del fatto che appunto viviamo in comunità multiculturali, in comunità insomma dove per fortuna quello che va sotto il significato di musica è un concetto piuttosto allargato. Sì, sì. Intanto sì, ti dico che noi al venerdì, forse lo sai, forse no, ma te lo dico, abbiamo il format di un'ora dedicato al teatro in scena, per cui sì, tranquillamente sì, sì, attraverso Amalia Picella o tu direttamente puoi contattarmi per darne diffusione di questi contenuti, sì, di questa programmazione. Io sono ben felice di collaborare con Ferrara, già la faccio con la musica, e perché no farlo anche con il teatro, sarebbe ovviamente un grande onore oltre che un piacere, okay? Sì, ma dicevo che appunto la nostra programmazione è allargata, poi determina anche il fatto che questi ragazzi che verranno a studiare con Leone Magera, che avranno la possibilità di entrare in contatto con Cecilia Gasdia e altri artisti, noi offriamo la possibilità poi di entrare in contatto con altri mondi, e quindi avremo delle lezioni con Enrico Ruggeri, con Morgan, perché ritengo che la voce, insomma, è un cantante che fa degli studi comunque di tecniche importanti, poi in realtà sia anche in grado di aprirsi verso altri linguaggi musicali, quindi insomma sarà possibile anche fare questo durante il corso. Bene, ricordiamo che è fino al 28 marzo, una durata estesa e una possibilità di valore aggiunto al Teatro Comunale di Ferrara. Qui con noi l'amico di Radio Città Fusico e compagno di viaggio per il 103.1 Marcello Corvino, esatto, al quale diamo appuntamento magari in scena al venerdì con una specificità sul teatro, in questo caso per la città di Ferrara. Ti ringrazio tanto Marcello, ti auguro grazie buona giornata. Ciao. Grazie, ciao, buona giornata. Ciao. Buona giornata. Thank you. porta alla pubblicità questo brano. Abbiamo parlato all'interno dei magazine, intervallato dalle chiacchierate con l'ospite Marcello Corvino, quindi fino al 28 marzo per quanto riguarda questa possibilità, che ribadisco è gratuita, presso il Teatro Comunale di Ferrara. Allora, abbiamo parlato di Stelle e di Universo, attraverso invece l'inserto della lettura, che tra l'altro insieme all'altro inserto, quello di Repubblica, è disponibile in edicola per tutta la settimana, non solo per l'uscita del weekend, per cui io ne consiglio di sfogliarne le pagine in quanto l'approfondimento culturale, e consiglio, anche se ovviamente coi tempi che corrono è ben difficile portare pubblicazioni, come vi ho detto i problemi per la carta stampata quotidianamente, a proposito di quotidiani, sono tangibili, però avere i magazine a disposizione come settimanali sarebbe secondo me molto importante, oltre che molto piacevole. Allora, abbiamo parlato di Stelle, l'universo della lingua, tra poco c'è la pubblicità, il brano che stiamo ascoltando è Stars di Nightmare on Wax, e rientreremo per un appuntamento in musica a Bologna. Saxofono, rientriamo in diretta certamente da playlist, non esattamente per il Breakfast Club, ma la qualità musicale, il messaggio è veramente molto intenso. Stiamo parlando di un grande, Claudio Lolli. Ci sarà un incontro che è giovedì 21 marzo alle ore 21 al Cinema Teatro Galliera, come ben sapete in via Matteotti 27 a Bologna, co-curatore, una voce che ben conosce Radio Città Fujiko, lo storico saxofonista di Claudio Lolli, e con noi qua in diretta telefonica Danilo Tommasetta. Buongiorno, bentornato Danilo. Buongiorno a te Willy, e grazie. Grazie. Come stai Danilo? Da un po' che non ci sentiamo. Così facciamo. Sto bene, passano un po' di anni, cerco di tenermi più o meno in forma e di fare delle cose che mi diano un pochettino di soddisfazione nella vita. La musica è quella principale